Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City, benvenuta Chiara Albicocco. Ciao Maurizio, buonasera a tutti. Dunque Chiara, settimana scorsa la benzina ha sfondato quota 2 euro, portando a quasi 2.000 euro l'anno l'esborso per un'auto che mediamente percorra, diciamo, 15.000 chilometri appunto in un anno. Se poi aggiungiamo il costo dell'auto, quello per l'acquisto, diciamo spalmato su una decina di anni di utilizzo, l'assicurazione, il bollo, i costi di manutenzione, scopriamo insomma che possedere un'auto, non ci pensiamo molto spesso, può facilmente costare qualcosa come 500 euro al mese, praticamente l'equivalente di un affitto. Dico questo perché, anche se non siamo abituati a riflettere in questo modo, 500 euro al mese sono anche un bel gruzzoletto da dedicare o da investire in tanti altri modi alternativi, comprese magari forme alternative di mobilità, come quella di cui parliamo oggi, il car sharing. Chiara, con chi ne parliamo? Per parlarne abbiamo l'ingegnere Marco Mastretta. Buonasera Mastretta. Buonasera. Lei è direttore di ICS, che è appunto iniziativa car sharing del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Allora, non so, Mastretta, io partirei dando la definizione, forse per chi ancora non lo sa o lo conosce poco, che sì. Cos'è il car sharing? Sì, per fortuna negli ultimi periodi si è parlato abbastanza di car sharing. Il car sharing è un servizio di mobilità che in Italia è nato proprio come un servizio molto vicino al trasporto pubblico, che permette di utilizzare l'auto senza avere bisogno di possedere l'auto, poiché l'operatore che gestisce questo servizio mette a disposizione di chi ne ha bisogno, degli utenti abbonati, auto che l'utente trova sulla strada, abbastanza vicine una all'altra, e a cui può accedere attraverso una smart card che viene fornita. L'auto viene prenotata attraverso internet o attraverso un call center per il tempo che è necessario. L'utente accede senza bisogno di alcun altro intermediario direttamente all'auto con la card, usa l'auto per il tempo che gli è necessaria come se fosse sua, parcheggia l'auto al termine e la rilascia all'uso di un nuovo utente. Una volta al mese vengono addebitate su carta di credito, su RID bancario, su conto bancario, le spese relative all'uso che è stato fatto dell'auto. Le tariffe includono tutto, anche la benzina. Quindi, più o meno quanto costa al mese? Se abbiamo detto che un'auto normale ci o costa... a chilometro, insomma. Sì, più o meno. Ecco, allora, l'abbonamento annuale varia da città a città, comunque attorno alle 150-200 euro all'anno. Poi non ci sono altri costi fissi, per cui il costo dipende solamente unicamente dall'uso che viene fatto. La tariffa è oraria e chilometrica, è una combinazione delle due, e dipende ovviamente dal tipo di auto che si trova, poiché noi offriamo auto di tipo differente, che vanno dalla city car, che è sicuramente quella più usata, fino ai furgoni per utilizzo di trasporto di merci, di beni e così via. Facendo riferimento ad un'auto media, per dare un'idea, al momento attuale le tariffe sono circa sui 2 euro all'ora e attorno ai 45 centesimi a chilometro. Chiaro che quest'ultima tariffa è molto influenzata dal costo del carburante, perché, ripeto, include anche il costo del carburante. Siete in Italia come va? Si sta diffondendo? Questo è abbastanza visibile nelle grandi città. Quali sono più o meno i numeri? Sì, si sta sicuramente diffondendo. Guardi, negli ultimi anni è cresciuto circa ad una media a livello nazionale del 20% annuo globalmente, ma con punte molto elevate soprattutto nelle grandi città, che hanno addirittura raddoppiato in pochi anni il servizio. Attualmente noi abbiamo circa 22.000 utenti che sono nelle, diciamo, 10 principali città in cui c'è servizio e in alcune località dell'Interland di queste stesse città. La maggiore presenza è sicuramente a Milano con più di 5.000 utenti, a Roma 4.000 e poi via via nelle altre città, Torino, Genova, Bologna, Venezia, Firenze, Palermo. Quante auto sono disponibili in questo momento per questi 22.000 utenti? Quante auto servono? In questo momento ci sono 620 auto in flotta distribuite normalmente. Tenga conto che una vettura di car sharing normalmente serve almeno 25 utenti. Voi sapete che una vettura privata sta ferma mediamente per il 90% del suo tempo, viene utilizzata nel migliore dei casi per il 10% del tempo. E spesso da una sola persona, tra l'altro. Massimo due, insomma. Quindi concetto del car sharing è ovviamente molto semplice, l'uso più razionale di un bene che deve essere sempre più considerato un bene di investimento e non un bene di consumo. Tra l'altro, se ecco, mi permetta di fare anche questa osservazione, se pensiamo alle tecnologie automobilistiche più avanzate come l'auto elettrica, che ha un costo molto elevato, se quest'auto viene utilizzata non per il 10% ma per il 60% del suo tempo, questo costo viene ammortizzato molto più rapidamente, quindi è un modo di introdurre queste tecnologie sensato anche dal punto di vista economico, vero? Assolutamente, questo è proprio il principio fondamentale ed è l'uso più intensivo della vettura, è anche il modo per cui diciamo, le tariffe all'utente finale del car sharing possono essere più basse e si traducono poi in un risparmio significativo per chi, come diceva lei, compie un numero limitato di chilometri. Domani vedremo un po' i casi europei, ma mi sembra che l'Italia non è poi così messa male. Ecco, complessivamente, che voto possiamo darci? In Italia, a nostro avviso, ci sono ancora molti, molti margini di espansione del servizio. Senza dubbio. Che almeno dovrà essere, perlomeno, facendo riferimento alle dinamiche che sono state registrate nel passato e alle realtà degli altri stati, almeno quintuplicata dal nostro punto di vista. Entro quando? Diciamo nei prossimi anni, 4-5 anni. Il servizio italiano, grazie soprattutto all'impegno e al supporto che è stato dato dal Ministero dell'Ambiente, è nato come un servizio di livello qualitativo molto, molto elevato. Il servizio è completamente interoperabile su tutto il territorio nazionale, quindi un utente che si iscrive in uno qualunque delle città italiane può utilizzare il servizio con la stessa card, le stesse procedure e lo stesso conto bancario o carta di credito in tutte le città servite dal servizio italiano. Questo è un notevole vantaggio, poiché permette per esempio di prendere il treno da Torino a Milano e poi di prendere l'auto a Milano senza bisogno, evitando spostamenti in auto da una città all'altra e così via. Grazie ingegnere Mastretta, noi ci sentiamo però ancora una volta domani per fare il punto invece su una serie di progetti europei. Per intanto buonasera. Grazie, buonasera. A domani. Ci fermiamo qui allora, appuntamento a domani.